ma non c'entra nulla. La schermatura è la questione. O come sia in corrente, il mio è spento. E tu mettiti una staffa lì su un paletto e l'agganci la sollevi di pagli di metri, va qualcuno. Ah, cosa? Lui mi ha detto che se volevo me la metteva lui, non c'era problemi. Però non la fate pensare da lui. Qual è il problema? Se ti dice, se ti hai detto sì, piazzala, metti la staffa al tetto, va qualcuno. Tu puoi andare lì a un domani. Non è che devi spendere un sacco di soldi. Per il momento tengo questa, poi voglio mettere qualcosa da più. Sì, vabbè, per il momento sei 4 anni lì, poi magari deciderai, troverai qualcosa di meglio e cambierai casa e tanto magari via Napoli, non lo so, in zona migliore di dove sei adesso. Adesso voglio fare un passaggio con l'altro apparecchio. Ale, mi aspetti un attimino che cambio? Sì, prova là. Attenzione, 10. Avanti. Buonasera a tutti, doppio rum, avanti. Ciao Gianni, buonasera. Ciao Gian, come ti arrivo lì? Una bomba. Quanto sono di segnale? Prova. Sono 2-3, prova. Di segnale 8,5, ma la radio è una bomba. Sul tetto. Basta che cambio un attimino apparecchio. La radio è forte, la radio è molto forte. Sta apparecchio ci vuole. E c'è forte sì. Quello me lo deve dare, anche non me lo metto in mano. Esagerato, ce li hai gli apparecchi. Quanto se vuoi caricare i baracchi? Tanto li ho, ma... Cazzo, non ne ho uno che sta dentro il cassetto della macchina, ce li immagino. Quanti grandi? Sì, sai quando ci sta nel cassetto della macchina, quando c'è una farina uguale a quello che ho io. E se mi non senti, io quello non me lo metterò mai, non esce di radio. Questo lo dici tu. Io ci ho messo come si chiama? Ce l'hai anche tu? Il DM1000 ci ho messo, funziona bene. Oh! Certo, sì. Non ci vuole nulla agganciarlo. Ma me lo senti? Sai che tutto va bene, va bene, l'unico microfono, non ce n'è altro, se non lo metto c'è, scegli tu. Guarda a vedere adesso come arrivo con questo microfono, con questa radio. No. Non più forte sono, no? 9:15 qua. Hola. Sei più forte ma c'è uno zio alternato leggero. Sono su 100 voci. Cosa c'hai? Qualche aiuto? Sto provando l'ambarava cicicocco. Ma c'è alternata. Su 100 voci. Ci vuole l'alimentatore più grande, vabbè. Adesso a vedere com'è. Comunque la radio era meglio l'altra, era più forte. Vabbè, adesso com'è? Come funziona con questo? Sempre alternato. Ma sto cazzo di alimentatore mi ci rende di guglione. Ma che cosa stai usando? Cosa ti ha preso? Andava bene. Aspetta che provo a cambiarlo. Hola, hola, hola. Adesso alternata, se ne sente? Sì, appena sento. Perché sto entrando in un coso dentro. Si vede Ghiani Gingu. Aspetta che cambio. Ma solo a cambiare l'alimentatore, quello può anche affacciare. Hola. Hola. Con questo va bene, non c'è niente. Adesso? No. Com'è il microfono? Cioè com'è il segnale adesso? Va bene? Sente. Hola. È andente. Ecco qua, prova, 1, 2, 3, prova. Adesso va bene, Antonio, non c'è alternante che segnali poco fa, non dici. Sì, ma deve essere qualcosa castigato, deve essere. Cosa, l'hai ucciso? No, quel microfono mi sta rompendo le balle, vabbè, come ha trasportato la roba? E magari ci fa più filone poco fa. E scappa, sicuramente sì. Adesso quanto è di segnale? 9:15? Sì. Sì, già va bene, dai. Pensa che sono lontano da te, magari non lo so, a mezzo coperto sono, non lo so. No, no, non va bene segnare. Dove sei in zona più o meno? Zona via la Isabellina, quella zona lì. Via Isabellina, dove c'è la discoteca io? Sì, in stanza di vecchio, eh. Non so. Papà, la discoteca tu ci avevi? No, la saletta, andavamo a ballare nella saletta. Da ragazzi, non avanti. Sai che provo a tornare all'altro alimentatore, per essere. Ecco qua. Questo è l'altro alimentatore. Dovrebbe soffrire un po' di meno adesso. Adesso va bene. Quel microfono di merda, stava girando le palle. No, c'è la batteria, non sai. Sì, beh. Come va a cambiare la batteria, non ne hai altro? No, già. Non ne ho. Vabbè, ma comunque questo va bene, dai. Ma è basso come microfono, l'altro era una componente. Che microfono era? No, un apparecchio, l'Intec. 550 power. Allora non può essere la batteria, non è amplificato. No, l'altro, il microfono è il DM1000, quello che stavo utilizzando qua. Quello c'è fuori. Secondo me è la batteria. Lasciamo la batteria. C'è qualche maledizione è giunta. Il mese mariano quello è, non ti preoccupare, il mese mariano. Ali, cosa sarà secondo te? Aspetta un attimo che... adesso mi ascolto. Come sto uscendo con quell'apparecchio? Io... Se vuoi quello del Natalino, come va? Come va? Bene, Ali. Se te lo metto. Prenditi uno di questi e li agganci il DM1000. E sei a posto. Non è nessun problema di cambiare niente. Lo lasci così com'è, originale, tanto ti dà 2 watt e mezzo, non di più. Se lo modifichi, rovini tutto. L'unica lasciando così, e se la tronca in culo. No, già va bene, già si sente bene, solo che ripete troppo, almeno ripetizione, a quanto ce l'è la ripetizione? Va bene, l'ho regolato io questo. Non è che sia fastidio. Dipende da come parli. Già lo sai. Se parli veloce, non si capisce, una fanculo. Invece se parli lento, è uguale, e l'audio è perfetto, originale. Come ti sentono a te parlare, vedi tu, vedi che va bene, prenditi uno di questi, e sei tranquillo, c'era Natalino, vai da lui, te lo fai vendere, e te lo metti nel cassetto del coso, in macchina, poi al limite li metti un 150 qua, come lineare, piccolino, e sei tranquillo. Ma i lineari con le macchine nuove vanno fatti da centralino, non disturba la centralina questo, non ti preoccupare. È un apparato che è filtrato, ma un bel filtrato. Non disturba manco la televisione, sono là. Esce 2 watt e mezzo, cosa vuoi di più? Quindi è una cosa tranquilla. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Vediamo un po', aspetta. Adesso senza ecco, va bene così? È una bella cosa. Se aumenta l'amplificazione che c'è all'interno del trimmer, si sente la voce del parlante, ti fa tipo... come quegli apparati che vendono, hai capito? E fischia, quindi l'unico livello è questo. Fa l'ascolto. Esatto, che fa la palascolta, bravo, ci sei arrivato. Allora, lasciato così, va a far culo. L'unica cosa è metterlo così. Infatti, lo tengo così più che altro, per la lavorazione, no? Per l'altro. quindi se c'è un DM1000 non fai altro che andare a togliere l'autofrenale e poi ti faccio la commutazione io, sempre ce l'ho, non faccio altro che copiare dove sono messi i cavetti e funziona subito. E questa piace a Gianni, è vero? Quello va bene. Hai visto, si buono, sì, cosa c'è? Mi scappa normale di 550 oppure... Microfono dell'apparecchio, è già. Va bene. Scappa. Poco fa ho attaccato il coso a 1-1 di stazionari. Si muove appena appena l'ago. Meglio così, tutti i canali. Cosa già? Su tutti i canali c'hai poche stazionari. E cappa, mi adesso lo torno a riattaccare per vedere come la sto questo cazzo di rumore in mezzo ai coglioni, se no è andato ancora meglio. Qual è la batteria del microfono? La giambia? No, no, non questo, no, c'è proprio il rumore di QRM. È una batteria, gli piace la batteria. Non ho capito. Alla tua ragazza gli piace la batteria? Sì, no, no, non mi dice niente. Tanto lo sa che sono appassionato di queste cose. Sì, vabbè, ma le cose ci sono per studiare. È tutta un'altra cosa, fidati. Fidati di me. No, per quello qua. Per quello là adoro. Perché è quello. Capisce le mie passioni, sapete? Ogni apparatorio. Adesso invece. Siamo tutti finocchi, siamo tutti maschi, cazzo, Padia. Ma se non le donne c'è la competizione. E appunto ti dovrei tu fare con tua moglie. Adesso ho dato su un tubo con tua moglie. C'è da qualche ragazza, devi dipacciare in giro, cazzo, che rientrano. Se ne ricordi gli appuntamenti. Funzionaria. Cioè, più o meno così, dai. Mai c'erano, cazzo, che andavano a sentivano la donna, troppi subito immediatamente, dove abiti, dove abiti, ti piazzo l'antenna io, sono tecnico, ti do il baracchino io, ti do il cavo io, ti do la stazione completa, non c'è problema. No, io sono lì qua, ti hanno regalato stamante, e vabbè, cazzo, un giorno lo vedo stamante, no. Roberto ce la vedo spesso, ma Samantha no. Che fine ha fatto? Nel centro antiviolenza so che lavora, delle donne. Al centro antiviolenza? Sì, io. Pagato? Cosa ne so io, così so io. Poi, vabbè, Roberta mi sembra lavorare ad Alghero. Da quanto ho capito io, lavoro al vero e in qualche hotel perché l'ho vista in Vestaglia un'altra volta, deve essere anche separata senz'altro. La vita ha cambiato. Quando vai sposati nei paesi secondo te cosa succede? Casino succede, basta. E, in pratica il marito è attaccato alla madre, la vede alla madre, quindi capito, il discorso è così, lo sai com'è la questione, quando si scusa ti si usi, dicono te, tutti attaccati i parenti, tutti, a romperti le palle, quindi l'unico, non voglio che vai in città, se fosse magari in città, per dire, è sempre stata una cosa diversa. Siccome siamo attaccati tutti così e hanno l'abitudine, non ci può fare nulla. Quindi se te avete da mamma, te avete da babbo quando sono vivi, quindi da tuffi. A fare che a un certo punto va a far cuffia. Ale, c'ho l'arringo c'ho a casa, alla latte dolce. Come, che problema, come si può risolvere il problema che hanno? Il problema che hanno devi sollevare lo stiletto e metterci un ribattino in modo che c'è quella specie di tipo spugnetta nera, hai capito? In modo che lo stiletto non scenda giù ci metti una pizza, un bel po' di silicone, in modo che blocchi tutto, in modo che non si possa scendere giù e che vada in corto. Tutto lì. Adesso un pochettino sono in baraonda. Fa una cosa, ci mettiamo la corda e me la piatti. Va bene? Lo vedi a casa di vecchio. E anche viene a casa mia e me la piatti sul tetto. Tu sei tutto scemo che salgo sempre al tetto di casa di vecchio io. Non ci salgo più io sopra quei tetti, no? Manco se mi paghi. Marco, se mi dai 200 euro, non ci salgo più a certo storico. In quei tetti fatti di cosa, no? Saranno. A giovedì 2 euro. No, qua è fatto bene il tetto, fidati di quello che ti sto dicendo io. Beh, scusa, ti sarebbe bella l'antenna, fai come ti dico io, poi sali su e te la piatti, cosa ti cambia? Non ti cambia niente, no? Io sopra quei tetti in tegole vecchie non c'è sangue, neanche se mi dai una torta con limone e cosa del genere. No, qua è tutto nuovo, non c'è niente di vecchio. Vabbè, dai, vediamo un po'. Cioè tu mi dici come la devo collocare, tu mi dici, poi vediamo, ci mettiamo d'accordo, ok. Ma una cosa, tu mi porti l'antenna, io te la isolo bene in modo che non vada in corto, la provo qui a casa, tu faccio la che date la diretta a te, poi tu la dai al limite a parola e dici, metti una diretta al tubo e vai a fanculo. Cappa, ma devo essere sicuro non mi sia stazionaria. Non te la stazionaria, non ti preoccupare, ti faccio la tua io qua. Sicuro? No. Sì, sicuro, assicurato, insomma, non ti preoccupare. Va bene, dai. E adesso no, ma più là te la porto a te e poi me la faccio mettere sopra. No, soprattutto io non ci vado più, lì è centro storico. Non saranno. Io ho avuto esperienza da poco lì alla cementeria, ti capito? E l'ho comprato in mano e mi è arrivata una fica di vetta, cioè mi si lampa a me a un dubbio, non saranno. Ormai sono arrivato alla villetta mia e me la voglio godere, non ce la voglio scendere giù dal tetto per un'antenna, per un coso. Vabbè, quello era l'antenna di TV, la verità. C'erano 12 metri di palo, figurate tutto. E quindi non mi fido più di niente. A meno che il tetto non sia fatto in piatto, devo fare i fori nei fianchetti, perché se a tegole non ci salgo. Cappa, no, non c'è problema. Me la faccio piazzare da qualcuno. Vabbè, non c'è problema per quello. Basta che chi dice, c'è gente che sta a prendere, non è quello il problema. Io non me la sento più. Non mi è arrivata a questo limite, non ho... sono rimasto in bilico, sono rimasto, quindi la sono vista brutta, è arrivata una fica, è arrivata a Dio, mi si lampa a me, eravamo in due a tenere il palo del colpo, quindi non rischio più, infatti non ci sto più andando lì alla cimenteria a fare impianti d'antenna, l'ho fatto una volta, non vedo più, adesso non ci sto più andando, sono andato l'ultima volta, sono andato un mese fa a sistemarcela. Non è così bello trovarti vuoto, che è un casino, capito? Ma ci metti a 40 gradi che ti trovi, era tutta la miera, non so come ti senti i piedi sotto le scarpe. Cappa, dimmi già l'importante, ti stai mettendo l'importante. Oh, volevo sapere se stavo uscendo con questo apparato, dai. Non mi raccolto, stavo parlando adesso, ho fatto solo un passaggio qui, ho subito smesso. Gaba gaba, guarda come va tu, questo qua come va? Ma bomba io! Va. Ho già una bomba io! Va? Cappa, c'ho tutto il mio spazio qua. Ah, tu stamani già non ho dormito poco. cazzate mi stavo girando il coglione. Ti gira da voi qui attacco l'impianto, vedete, se no che impara l'educazione. Asco, cosa ti stavo dicendo? Cosa ti sei trasferita? A ieri. Totalmente? Sì, sì. Vada, vada, già va bene. Ah, dove sta, quelle mancanti, ho già. Vabbè, se hai ritenuto così, ho scritto come fare così e fatto bene. Là. Interessante che ce la fai andare avanti da tu. Sì, sì, sì. Ti stavo dicendo, c'è la Energy come antenna, la GBC, quella va un bel bene, la 5/8, c'è la Marco Condor, c'è la diversa gente, vanno benissimo quelle antenne. E arrivi nei posti a tutti i bassi. Sì, sì, la conosco. Non te la compri, non costa manco tanto. Adesso c'è delle specie. Appena che posso me la prendo, sì. Vabbè, va. Lo vedrai qui, sicuramente. Come antenna quella lì è meglio della Ringo, a Puglia, vero lì. Ma quella là ce l'ho tanti anni, ce l'ho. Come si dice, ce l'ho tanti anni, cioè perché buttarla via, non l'ho mai usata, impacchettata. Guarda, e dove ce l'hai, cantina? E il magazzino la babbo ce l'ho. Brava, e prendi, la già è facile a piazzare quella lì, cosa vivo a piazzare? Voglio fare la modifica da Alessio perché sono un po' gareggio garogne. Entra acqua, entra un militante lì. Diglielo, anche Giuseppe ce l'aveva per fare, Giuseppe Leoncini. Non è che entra un militano, c'ha la spugna, c'hai capito? Quando si riempie di acqua, in pratica la spugna cede e lo stilo se ne scende in giù, hai capito? E va in corsa, tutto lì è il problema. Ci vuole una vite per poter frenare lo scorrimento dello stilo. Bisogna fare un foro, bisogna fare, hai capito? E sei tranquilla, fa la misurazione dello stilo. Una volta è fatta con cosa, un Marco Condo, con l'antenna lì, abbiamo voluto prendere il mezzo per poterla farla funzionare. Dopodiché, quando si era disfatto, ho preso e da lì, cioè da lì, me l'aveva regalata lui, ho preso e l'ho messo da una parte, dopodiché ho trovato l'amico, l'ho trovato e l'ho preso per lì in campagna sua. E comunque, l'unica cosa è una bite, poi ho messo il silicone e lo stile rimane lì dopo, non si muove più. La trattura va bene, quella che avevo fatto di qui a casa, l'ho pensata lì a uso, era perfetta l'antenna. Figurati in questa campagna qua. E poi non l'ha mai usata, mi ha regalato due baracchini, ho regalato un 120 canale, un 220, un ultimo dei tre, un ultimo dei due, avevo regalato e non l'ha mai usata. Ci eravamo lì buttati a casa su con l'alimentatore e tutto da lì, stampato. Peccato, se si ha bisogna usare, se no è un peccato, regalare a chi non li usa è un peccato. Lo sai sicuramente dove arrivo forte io, alle punte. Che è alto? Perché ce l'ho libero, da quella parte sono tutto libero. Ah, ho capito. Vedi, punti con dottore, se forse sono lì. Cosa, il profeta arriva a forza tutte le parti. Ciappa, proprio a ripunti, sicuramente da Giulio arriva un bel forte. Ma forte però. Vediamo, là. Proviamo, facciamo le prove quando è. Ebbè, gente mala. Marco Condo. Buonasera Marco Condo. Buonasera a tutti. Che palle di estate, per carità. Ah, Gesù gatto, sei quasi a fondo scala qua, Sì, anche tu arrivi bene, dai. Ciao Antonello, Gianni, Bombolo, giusto? Chi altro c'era? Appa, quando ti arrivo io, Marco, lì? Qua sei quasi a fondo scala. Evidentemente sei a direzione mia. Allora, 9+20, quando hai attaccato eri 9+25. No, sono sempre normale adesso. 9+20. Già, già va bene, già. A voglia, ce n'è anche più ce n'è. Ce va bene 9 più 20. Ciao Marco. Ciao già. Che palle, guarda. Palle di giornate. Sì, mi sono buriato dell'estate, tanto a pesca super non vado più, non faccio più nulla di mare. E cosa vuoi tutti i giorni in casa voi? Già stavamo crepando, adesso mi faccio un pochino di mare. Meno male, meno quello, almeno puoi uscire e puoi stare tranquillamente a casa a dormire, mentire come si deve. Io ho dormito veramente male, ma sai, quando ho dormito un zucco, ho messo la ventola, mi sono sentito male, boh, non lo so, dolori alle gambe, dolori muscolari, articolari, cose del genere. Non le metto più di ventilatore, manco se si ammazza. Avete parlato in due, è passato Gianni, l'hai trovato quello spinotto, l'attacco, che tipo di attacco era? Slitta Marco, è di quell'attacco a slitta che ci mettono sotto, scusa Alessio, ma stavo portando io e ci ho sopravvolato, di quell'attacco a slitta Marco, niente, non ci trovano, non è un attacco, ci trovano le punte, tutto questo cose qua, ma l'attacco per... per la corrente non si trova. Ah, come erano i vecchi VHF a Contraves, con lo scorrimento, sì, quello lì, purtroppo sono cose particolari già. Ma che, perché apparato si può sapere? H-Intec, H501 mi pare, 500, devo controllare, aspetta, lo dico di sì. 501? Vabbè, di quelli portatili comunque. Eia. Antone, ripeti cosa hai detto prima, la parte iniziale. Eia. Ma ora non me la metto più. Mi è sfuggito di mano adesso. Mi ha solo guardato, vabbè. Tac 501. Ma che cosa molto incontrava questa volta? Per cercare i canali. Ma cos'è, un VU o cos'è? No, è CB. Dalla sigla portate le CB, me li ricordo. Ti ricordi l'Endicom 90, l'Endicom 20LX, quello che aveva il display digitale? Quando hanno cominciato a rovinare i portatili, mio Antonio, che l'hanno fatti con quegli antennini di gomma e rendono poco. Ah, vabbè, quello sì, me lo ricordo. Allora. Io vabbè, ormai non si vuole più niente per portarti, ma a comprarlo non vado qui a Santa Maria nemmeno, meglio quelli con la telescopica, che è lunga 1,20 m che ammazzi qualcuno, ma almeno esce come si vede, se no l'attacco con quella tela caricata. L'unico apparato che usciva veramente bene era Cosmo, come vediamo si chiamava, aspetta, si chiama l'attacco del microfono, era un attaccamento che non stava a scoprire, quello era una bomba, il maio, l'unico era quello, trovare quello sarebbe una bomba, troppo ti dove vuoi, in campagna, anche a produttore se esce lo stesso, esce, perché c'ha 12 batterie a 1200 mAh, sono 5 watt all'uscita, ma 5 watt e 20, non 1 watt e mezzo, in più 1,20 m di antenna telescopica. H510 plus, Marco. Adesso lo guardo, dai, avanti Antonio, riprendi. Non mi ricordo che apparecchio è, ma deve essere bello. Sì, diciamo che va anche bene, se te lo attacco, te lo faccio ascoltare, esce anche bene. Ce l'hai tu? Portatile anche un portatile. Ah, ho capito. 510 plus, H510 plus. Ah Gianni, ma è il solito, io questo l'ho già visto, ne avevamo parlato, l'avevi provato anche con noi. Sì, ma sto cercando, io l'ho provato con le batterie, se no opziono per un'altra cosa, compro le batterie ricaricabili, però devo comprare quelle della Duracell, perché non ho detto che sono quelle che durano di più, e le ricarico, poi basta, fatto il gioco. Sì. Ma scusa, per l'alimentazione esterna non potevano mettere un attacco classico, quello spinato col forellino al centro, una cosa semplice, boh, vabbè. Sono due attacchi, ma non sono per l'alimentazione, sono uno per le cuffie e l'altro per il microfono, boh. No, sai quale credevo che fosse, quello bello della Intec, l'ammiraglio, quello che è il display enorme che hanno tolto dalla vendita, il 520 Plus, o come si chiama, quello era veramente eccezionale, aveva il pacco batteria a scorrimento orizzontale sotto, no? Come erano quei vecchi VHF a Contraves, se ti ricordi, no? Però usciva meglio, aveva il display enorme, tutto cristalli liquidi, l'apparecchio. Adesso l'unico portatile in vendita rimasto, sai qual è? O quasi l'unico, a parte qualche Lafayette che sta lo sparendo, però quello che ha Nicola, un lupo grigio, è l'Alan 42, adesso versione DS l'ultima. Alan 42 adesso vado a vedere. Che lo stesso c'ha un attacco sotto, gli puoi mettere antenna esterna, veicolare, l'alimentazione, tipo accendi i sigari, però non ne sta facendo più la Intec, pochi li, poi vabbè in Europa qualcosa trovi roba Albrecht, vabbè, vai Antonio, riprendete voi. Però guarda, i 10 portatili funzionano bene, sono allenato tutto, ma non era, funziona bene, il Major famoso, quello che fa 40 canali normali e 40 canali sotto, che ho avuto io, tanti anni fa, c'è un attacco per poter utilizzare il microfono, vabbè, non trovi più ormai. Quando trovo qualcuno qua che qualcuno c'ha 20 tacce che te lo lavi 10-20 euro, lo trovi subito, lo trovi. L'unica cosa è succhiare la batteria, sembrava un turbo sempre. Ma quel mattone nero stai dicendo? No, non è un mattone nero, l'animale è del colore marroncino chiaro, metallico. C'è l'attacco del microfono davanti e poi c'è il display un po' più su, hai capito? Quelli escono bene, quei maior lì. A trovarlo uno come si deve, bisogna andare su internet se qualcuno ce l'ha e te lo dà per 10, 20 euro, 30 euro. Hai fatto l'affare. C'è un'antenna da 1,20 m, ma è un portatile di lusso quella. Io in campagna, figurati, e in Viale Palotone si parla tranquillamente con cosa? Con vediamo si chiama, di fronte ai pompieri, segnale 7-8, arrivavo lì, segnale, figurati. Sono volato la sua, mi. Antonio, quindi hai detto che è la Ringo attualmente? No, c'ho una cosa, ma la Storm c'ho. Per il momento lascio questa, poi metto quella lì. Sai così Antonio, se puoi migliorare cerca di prendere un'antenna un po' migliore, perché io la Ringo l'ho tenuta, l'avevamo piazzata con Antonello su, l'ho tenuta un anno, poi per disperazione l'ho tolta, perché le stazionarie andavano su e giù, poi addirittura si era mollato lo stilo centrale che è incollato a quell'isolatore nero, quell'anello in plastica, si era mollato e praticamente lo teneva solo la spirale. Guarda, dopo un anno l'ho tolta, messa la Energy, questa va finché va. Purtroppo la Ringo troppe rogne mi ha dato. È una cagata antenna, là. Poi sai cos'è? Io sono molto esposto quanto, cioè abbastanza esposto al maestrale, quindi lì lo stilo, capito Antonio, si era staccato il centrale da quell'anello isolatore di gomma che era incollato con una specie di colla bianca ed era tenuto solo dalla spirale, capito lo stilo, se non sarebbe caduto giù. Cosa che me lo ricordami? Avevo messo una vite, se ti ricordi bene, è una specie di spugna, non è che sia plastica, è una spugna, hai capito? Lì bisogna però la compri, non bisogna fare altro che metterci, sollevare un pochettino, metterci in silicone in modo da isolarla. Allora si è a posto, se no e metterci una vite, se no te scende immediatamente giù. Si beve l'acqua, una specie di spugnetta, se ne scende o si va giù, se ne scende, va incontro l'antenna. E via, vediamo se rientra Gianni. Poi, per carità, stasera c'ho parenti a casa mia. Mamma di turchi, sono già in di malumore, già da adesso. Ah, no, io già sono qua, non ci sono andato perché non mi ricordavo più il momento. E stiamo dicendo, no, io ci do i parenti, ma sono tutti addormentati, meno male, io ne approfitto. Ah, per entrare un po' in radio, via. Vabbè, riprendete voi che vado a bere, dai. E vai. Quindi Anto sei contento? Va. Contentissimo. Adesso devo migliorare sul baracchino e siamo a posto. Per migliorare? Devo migliorare qua. Devo mettermi qualcosa di più potente. Ma ti metti l'antenna, va bene. Cappa. Adesso questa è provvisoria, Poi ho deciso di mettermi in qualche antenna di svolta. Ma manco c'è una bomba, no? L'antenna è l'unica cosa che ci vuole, perché sia buona, dai. Poi il baracchino, quello lì, l'attacco 747, lo vedi come si... Guarda, se c'è una buona antenna, anche normale, non ci sono problemi. Allora, adesso devo cambiare il baracchino, quello va bene. Brava, no, non ha niente da dire. Pone un'antenna buona, verrà che già anda. Va anche così, Arrivi, però va anche così. Sì, ma voglio qualcosa di più, di migliore. No, la puoi anche lasciare sul tetto quella, perché una e l'altra, un'altra, l'altra calata. Adesso l'ho messa così, ma sono sicuro che se salgo ancora più su, la metto in punta, sono sicuro che va ancora forte, va rovescio fortissimo. Dove l'hai attaccata? Alla televisione? No, alla staffa del condizionatore. Che è sul tetto? Appa. Ma è messa così provvisoria oppure l'hai proprio messo le staffe, tutto qua? È provvisoria, cazzo, adesso dopo andare a farmi la ricarica. Aspetti proprio la fotografia del voto. La vedi? Anto, dimmi, tutto sono qua. Questa storia l'ho avuta, non è mai uscita da alcuna e decive, capito, questa sera? Questa storia 27 l'ho avuta io. Non usciva da non che la landrina. Ma io a me mi ha regalato il bazooka Stefano, non ho fatto altro smontarlo, io ho cambiato la bobina, poi ho preso, ho richiuso e ho trovato, l'ho lanciata qua nel tarottino, uno dei stazionali col capo da 1,5 elettrico. Dopodiché ho preso e l'ho portata lì al circolo e l'ho appoggiata alla vitrale dove cosa dico, c'è mette la birra nel deposito che in pratica rimane dentro un fosso. L'ho appoggiata lì senza massa, senza nulla, arrivava qua 9,20. Figurati tu. Allora ho preso e ho detto guarda, fai. Ma vuoi l'antenna? E tu sì, mettete in barca e la usi in barca. Poi vabbè, ho regalato l'antenna in barca io. E infatti l'ho passato con la barca, cioè con l'antenna per la barca. Però l'altra ce l'ha lui, ce l'ha conservata lì a Protore, si capisce, quel battuto. Ma usciva veramente bene. Tu immaginati da dentro lì, senza pasta, senza nulla, 9,20 qua. A me, a Claudio, non solo a me, no. Anche a Claudio, sono un altro. Me lo ricordo che ho preso l'unico modulato. E cappa. Ah, questa per essere così va bene. Cazzarola. Esce bene. L'unica cosa di quell'antenna bisogna aprirla e cambiare la bobina, tutto lì. Se cambi la bobina e metti il cavo da 1, 1,5, quello che è, cambia totalmente. Devi metterci 5,50 giusto di cavo, gli fai fare lo stesso identico giro nella plastica, poi prendici un filo dentro, ci metti io per il mattino e ed è perfetta. E poi fa il doppio. Perché il capo è fine fine, sai quant'è il capo? Sarà, quanto ti posso dire, un capetto da di cuffie mi. Dice, di cuffie, sì, esatto. Capa. Ma io sta dura puoi modificare. Ho capito. Questa dura puoi modificare. Sì, si può modificare quello che non è che non lo puoi modificare, basta cambiare il capo che c'è dentro. Ho detto il ribattino, ho detto il ribattino perché quindi non cambia nulla, prendo un metro, 5,50 di cavo, lì fai lo stesso dico giro, li fai e poi ce ne fai direttamente dentro al tubo di plastica. L'antenna è fatta, non c'è bisogno di cambiare un cazzo, l'antenna è già uno e uno tra l'altro, perché io l'ho fatto così e poi la vado a regalare la cosa amico, se non ci credi basta che glielo chiedi lì al circolo e esce bene veramente, di dentro col baracchino che gli avevo dato io arrivava a 9:20 qua a casa, figurati. Ha agganciato l'antenna nella cassata della birra in chiusa, figura di tu. Scappa. Ah già, no, va bene già. Tu riesci a aprire tanto, basta che coppi i giri che ci sono lì, guardi i giri, vedi che sta più grosso e faccio io. Scappa. Ah, adesso faccio stare così poi, mi prendo qualche antenna più seria, dai. Costa un 27, non costa molto, se va bene, hai visto manco come c'è bene. Ah, BLT, come cavolo si chiama? Quell'antenna lì. C'è la scopo 27, ma mi pare che sia sulle 90 euro, vero? No, la Energy. Ma la Energy, sto sbagliando io, scusa. L'avevo già detto io, che si può comprare, ma adesso ho sbagliato di 100. Oh, comunque anche la Storm l'ho provata, sai cos'è la Storm? Fa ancora bene se la metti sul tetto, cioè per quanto sia molto caricata, se la metti sul tetto, sul terrazzo, quello che è, cioè in cima al palazzo, ancora riesci a farti il passassari, ma mettendola nel terrazzino, è vero che non ha stazionarie, perché nel mio caso non ne aveva, però ero nel QRM, cioè è quasi un carico fittizio mi. Sì, è vero, non risuona bene se la più costituisce. Allora, scusa. 5,50. Ti metti un PL sotto, vi fai un po' un cosa per la massa e l'antenna è fatta, c'è poco da sbagliare. Ma io questa sono. Cioè l'ho usata per tanti anni anche a casa, esce a voce. Cioè sono soddisfatto, dai. Magari si può anche migliorarla. Ok, dai, io ho un attimino di bianco, ci sentiamo dopo. Ciao, dopo ciao, ci sentiamo. Non c'è problema, vai, buona continuazione di serata. Avanti. Sì, sono stato sopravvolato e tu, ma non mi ha sentito. Ciao, a dopo, ci sentiamo, stai bene, buon tutto. Eia, ciao Antonio, buona serata. Ripetimi la sigla di quel portatile che vado a vedere, perché sono andato a prendere il telefono e mi sono dimenticato. Ma del tuo, allora, Alan 42, poi l'ultima versione è la DS, Delta Sierra. Adesso sta controllando. Aspetta un attimo. Hola. Così è più amplificata la radio, Marco? Sì, moderatamente, ma è una modulazione quasi normale. Non dico amplificatissima, poi io ho un con volume basso un po'. E quale stai usando? Quale stai usando di apparato? Quello della panina o qualcosa. Il microfono di B1000. Bene, adesso sono la manetta. Fischia, aspetta un attimo. Fischia parecchio, regolati. Ecco qua, questo è il limite suo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. aspetta un attimo. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, e prova. Così va bene, così va bene. Sì, guarda, per essere l'apparecchio, il Polmar ZX40 va pure troppo bene, perché appena lo compri tu sai come esce, no? È una cosa indegna appena comprato. Ce l'ho anch'io, ma non lo uso. Se serve lo uso, se dovesse servire. Ma io mi chiedo come fanno a fare un apparecchio, no? Che di per sé non sarebbe male, è solo MFM, vabbè, per parlare ce n'è d'avanzo, e poi gli metti una capsula che esce male. Cioè, mettili una capsula come l'avevi messa tu, ti ricordi, più grande, e usciva già molto molto meglio. Cioè l'hanno progettato per uscire male, che senso ha? Boh, vabbè. Guarda che differenza tra un omologato e l'altro, tra il Polmar di serie e il 3009 di serie come questo. Una differenza abissale di timbrica. Mi chiamo Sondi, lo ammetto. Ma sai che hai cancellato il microfono, quello normale, io ho cambiato la capsula un paio di giorni fa, così vedi come esce, no? Esce, no? Guarda, tocco me, anche 1, 3, 4, 5, 6, se non sta nel porto. Orribile, Antonio, orribile. Sembra che stai parlando da un telefono di quelli degli anni 20. Se vuoi te la faccio sentire, te la registro e te la mando. No, c'è bisogno, mi ascolto, non ti preoccupare. Vedo di quella capsula solo di Giorgia, e comunque, questa è poco ma c'è, meglio questa. Telefono, certo. Non sono il telefono, sono una capsula che avevo bisogno di un videocitofono, a questo palatino qua, ma non sono il telefono. Vedo la capsula sua originale, questa è poco ma sicuro. Capito. A capsula di videocitofono. Sì, a capsula di videocitofono che è agganciata. Di quelle piccole, cioè non è che sia piccola piccola, ma grande quando va su originale, però è molto meglio, perché quella su originale non serve proprio un tubo. Però questa si capisce qualcosa perché c'è gli alti, capito? Sì, e come sarebbe? Comunque ho visto un Midland che è piccolino. Si chiama Midland Zero, lo conosci Marco? Sì, Midland M0. Allora, dicevano che il CRT, non mi ricordo la sigla, e di questi ultra piatti, ultra piccoli, uscisse bene di radio particolarmente, sempre con l'aiutino del Tribal, no? Però non mi ricordo la sigla, porca miseria, aspetta. E dovrebbero essere simili, molto simili, per il Midland lo paghi 30-40 euro in più. Il supporto è questo, non ce n'è altro di microfono. L'unico va bene è questo barattino qui e questo qua. O sono l'M300, questo è poco ma sicuro. Eia, questo è migliore Antone, te l'ho mandata ma non arriva, non ti arriva a te, a meno che non sia il numero sbagliato, boh. No, mi arriva perché non ho caricato la carta, c'ho la carta scarica, capita, adesso fino al primo non te la posso caricare, se no te l'avrei caricata. Non posso ricevere gigabyte, niente, nulla, è tutto bloccato. Dell'altro telefono, invece dell'altro non ho messo niente, ho lasciato così com'è. Naturale il telefono, non avere né Facebook, né nulla, né WhatsApp, girarmi così, no, ma giù sulla gara. Questo comunque va bene, è barattino. Sono contento. È l'unico metodo, questo è 300, o solo di 1000, io sono poco ma sicuro, se vuoi uscire uno di questi apparecchi. No, sì, c'è il cassonetto vicino a casa, e ti rampi due, Eia. Antonio, Antone, poco fa stavi accennando un portatile che ha la presa microfonica frontale marca Major o una cosa del genere, color marroncino, ma io non ricordo di averti dato un portatile del genere. Dimmi come è fatto. No, non me l'hai dato, non me l'hai dato, te l'avevo comprato io tanti anni fa. Si chiama Major, no, si chiama. Ma sai quale Major? Con la greca ci sono, c'è quel tipo di portatile, c'ha l'aggancio per il microfono esterno, a quattro poli, il display che ti fa da 1 a 40, poi c'è il pulsatino del fianchetto che ti fa 40 normali, 40 sopra. Ah, tu stai dicendo come il Dynacom 80, anche Gianni l'ha avuto il pari. Sì, guarda, facevano vari nomi, Lafayette, Dynacom, Major, Intec, un bel di nomi. Era quello che aveva il telaio in alluminio, quello era il miglior portatile per la 27 che avessero mai fatto, che aveva il display di canali a LED come i baracchini veri, aveva l'ingresso per il mic 4 poli, l'attacco dell'alimentazione per le cuffie, c'avevo un mini smitterino, quello era il più bello, il più bel portatile. Esatto, sì, esatto, sì. Il display poi c'era un fianchetto, una specie di pulsantino grigio, lo premevi appena e si illuminava. Sì, pulsantino bianco che io ricordi, laterale, tondo. E quello era, mamma mia, un apparecchio che averlo funzionante giorni, vabbè che ormai il portatile, cioè a cosa serve? Chi ne usa più portatile, Antonello? Guarda, basta uscire in macchina con antenne di qualsiasi tipo, la gente ti guarda come un alieno. Oppure i ragazzini dalle moto guardano l'antenna e si mettono a ridere. Una volta uno gli ha detto che era a fianco, cioè che tu sei ridendo, e ha girato la faccia. Sì, le antenne le vedono come, sembra gente che è anche, vabbè, un po' ristretta mentalmente. E perché un amico che non vedevo da 15 anni non mi aveva detto che noi della 27 eravamo tutti rincoglioniti, con delle antenne ridicole o roba del genere? Vabbè, era un amico, quindi cosa gli vuoi dire? Non l'ha mai condivisa quella passione lì. E vabbè, secondo te la protezione civile non c'ha le antenne lunghe lo stesso? Ci sono i popoli che ne hanno 4 o 5 di antenne, si fa il coso, si fa il furgone, c'hanno la 27, c'hanno la U, c'hanno tutto, c'hanno, non manca niente, c'hanno il furgone pieno di apparati, lo sai, no? Per poter fare ponte radio. No, chi? Aspetta, mi sono perso. Chi è che non, che c'ha tutto il furgone attrezzato? I pompieri. Ah, fanno, possono in 2 minuti fare un ponte radio anche. No, non ci ho mai badato, Antonio, veramente. Non ci ho mai badato. Poi, da quando c'è stata la rivoluzione del Petra, non ho capito se abbiano cambiato antenne, pure frequenza, non so niente, nulla, sono all'oscuro. Ma credo che il Tetra funzioni intorno a quelle frequenze che una volta erano quelle militari, tipo intorno ai 380 MHz, la parte più lonfia, più strana, che i ricevitori peraltro non hanno, quegli assalti della Uniden, no, non ce l'hanno quella porzione lì. Chi lo sa, io non conosco il Tetra in dettaglio, non ho mai voluto approfondire perché non me ne ha fatti nulla. Ah, per quello sì. Comunque sia, qui diciamo tutte le antenne, c'è uno furgone che c'è la terra per la 23, tutte le antenne di macchina sono, per la V, per la U, non ne manca nulla, c'è tutti gli apparecchi, quindi figurati, serve solamente per fare la ponte radio, si mettono sopra un monte per dire parlare da cosa, una portavoce. Vediamo se è entrato Gianni, io fra poco mi faccio anche un bagno e così poi quando stasera arriveranno i parenti serpenti li accoglieremo. Ma adesso fa il petto, quindi come si chiama, ti prendi il sole? Hai detto? Guarda, c'ho il tetto. Che sai, sopra il tetto, prendi e chiudi. Tanto non ti posso dire nulla. Eia. Sì, ma poi se ti ricordi io dove faccio le prove, ci abbiamo un terrazzo di proprietà nostro, capito? Antonè. Lì posso mettermi la sdraio, pilarmi il sole nudo. Bello, mi vedono col drone. Così gli do un colpo di chicchia, gli butto giù il drone. Intendo. Quello che l'altro giorno c'era, guarda, ti giuro, sono sceso da stavo casa dall'altro lato, c'era un così per spiaggia, capito? Ti sdraio, una sdraio, proprio di quelle per spiaggia. Oh, nuova. Sono sceso giù e sto guardando, faccio una spesa, salgo su e trovo l'obiettivo. Salgo sopra, non c'era più, è sparito, nuovo. Non avevo saputo quanto l'avrei regalato. Diciamo, manco un graffio, appena penso, evidentemente qualcuno l'ha comprato, abbandonato, ma fa ancora. C'era anche le malecce addirittura. Comunque, Antonè, io mi ricordo, come si chiamava quella che è quell'antenna che ho accantonato per usi futuri, che poi non la Diamond, no, BC202 con la monobanda, e praticamente, come spiegare, tu lo sai il difetto insito di questi baobao, no? Più l'antenna li la metti performante, più piglia colpi di radio da ripetitori TV, ripetitori cellulari. Siccome io c'ho un ripetitore qua a 30 metri, no? Come ho messo quella sul tetto, non prendevo più niente. Tutti i segnali medio-bassi scomparsi, proprio scomparsi. Li attaccavo il ricevitore, l'Uniden, e ricevevo, riattaccavo il Baobao, cioè trasmettevo ma non ricevevo. Purtroppo gli apparecchi, quelli, cioè, Antonio, se costano 25 euro, 19 euro, 30 euro, c'è un perché, no? Invece quell'altro da 100 e più euro dovrebbe andare meglio, il Vox, quella roba lì. Infatti è tutta mondezza svendere, regalare tutti i soldi buttati. E tutti gli esemplari provati hanno fatto quell'effetto. Ecco perché dicono di tenere la sua antenna di serie, perché vengono come che prendono abbattimento da tutti i servizi che trasmettono via radio, capito? TV, radio FM e ripetitori cellulari, un macello. Infatti non conviene piazzare roba del genere, antenne sul tetto, ma per cosa poi? Per quella roba lì? No. Guarda che io non ho avuto dei problemi con l'antenna, lo sai. È strano. Io ho la X100, ho detto, ma quella è, cosa vuoi che dica io? E vediamo un po'. Io con il mio portatile, io chiamo tutti. Dipende dalle condizioni, Antonio, in determinate zone, in determinate condizioni, riesci a ricevere, in altre condizioni non va proprio, non va. Eppure prove ne avevo fatte a decine, con decine di, cioè, apparecchi diversi, antenne diverse, veicolari, portatili, di tutti i tipi, e sono arrivato sempre alla solita conclusione là. Invece, con roba seria, tipo Iaesu, Icom, Kenwood, dai veicolari in su, quei problemi non ci sono, capito? Guarda che comunque una cosa è logica. Allora, se tu c'hai l'antenna la X300, la metti sotto un onda o qualcosa del genere, non esce nulla, non riceve e trasmette, anzi ti dà anche stazione dei tre, come è capitato a me, che in pratica ho bruciato due resistenze di un lineare, figurati tu, ho preso la staccata, stazione 1 e 1, con quell'antenna lì, che ce l'ho giù. Quindi l'antenna vuole distanziata, almeno dalla mantova, almeno 2-3 metri, non di più. Sollevata almeno 3 metri, allora l'antenna rende, se no non senti proprio un accidente. L'unica che